Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Oggi ritorniamo a cercare di capire come poter investire il nostro gruzzoletto che abbiamo da parte, se le azioni non ci vanno bene, riteniamo che il mercato sia ancora molto incerto, se le obbligazioni lo stesso ancora essendo sulle montagne russe non ci garantiscono più quella sicurezza che ci garantivano in passato, almeno individualmente o emotivamente. Parliamo quindi di investimento nel mattone, ma nell'immobiliare turistico. Mi rendo conto che oggi parlare di località vacanziere con quello che è accaduto all'isola del Giglio può apparire poco rispettoso. Certamente la tragedia della Costa Concordia però non oscura minimamente la spettacolare immagine e la considerazione per la bellezza dei luoghi dell'Argentario. Comunque tutto questo per dirvi che oggi appunto a Salva Danaio parliamo della seconda casa, in un luogo suggestivo in cui rifugiarsi con la propria famiglia, in una meta turistica, il mare e montagna, con una vista incantevole, un paesaggio capace di farci dimenticare un po' le nostre città. Per molti italiani è solo un sogno che forse si allontanerà sempre di più, probabilmente con la crisi che avanza e con i sacrifici che quest'anno dovremo fare, perché come sapete sta aumentando tutto, ma è anche un investimento che tanti prendono in considerazione per le ragioni che indicavo all'inizio. Una cosa è certa, la seconda casa è anche una spesa, pensiamo solo alla nuova ICI, all'IMU recentemente reintrodotta, ma anche alle spese di manutenzione e gestione. Un motivo per riflettere bene sull'acquisto, ma anche una causa che potrebbe spingere tanti a vendere, magari a prezzi convenienti, quindi guardiamo anche questo lato della medaglia. Per questo è sicuramente sempre importante essere aggiornati sull'andamento del mercato, sulle offerte, sui prezzi che naturalmente variano a seconda della zona d'Italia considerata. Nel 2012, certo, nella crisi è presumibile che si farà sentire anche su questo fronte, il flusso degli acquisti potrebbe spostarsi verso zone sempre chic ma magari un po' in disparte rispetto alle mete considerate in passato per eccellenza. Al tempo stesso però potrebbero non mancare appunto le occasioni per un affare. Di tutto questo si occupa oggi Casa 24 Plus, che è l'inserto del mercato immobiliare del Sole 24 Ore, che dedica la sua copertina proprio a questo tema. L'ha curata Paola Dezza. Buongiorno Paola, bentornata. Buongiorno, grazie. E naturalmente avremo anche gli, non perché tu non lo sia, ma gli esperti del settore, quelli che proprio sono sul mercato dalla mattina alla sera e lo controllano di minuto in minuto. Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, buongiorno e bentornata a Salva Danaio, buona giornata. Buongiorno a lei e anche a tutti gli ascoltatori. E buongiorno anche a Bruno Vettore, amministratore delegato di Gabetti Franchising Agency. Buongiorno dottor Vettore. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Io mi sono data questa regola fino alla fine di gennaio di continuare ad augurare buon anno a tutti fino alla fine del mese, sono ancora in tempo, poi dal primo febbraio non lo farò più. Allora, chiaramente è un tema che ci piacerebbe affrontare anche con il contributo dei nostri ascoltatori. Potete come sempre chiamarci all'800 24 00 24, ci potete scrivere al 349 238 6666, ci potete scrivere all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Abbiamo anche il profilo Facebook salvadanaio-radio24. Ieri abbiamo sfondato la soglia dei 1000 animatori del nostro profilo e stanno crescendo di minuto in minuto, siamo già ben oltre questa soglia a 1020, quindi continuate ad aiutarci, appunto a dirci la vostra anche se volete sulle social network. Allora, prima di parlare appunto di mercato immobiliare, vediamo l'altro mercato, quello azionario, che vedo che sta allungando il passo, quindi evidentemente il mercato che oggi è un po' pervaso da buone notizie, almeno a quelle preferisce guardare. Milano guadagna l'1,10% con lo scatto dei titoli bancari, beh, Unicredit, vedo un più 8,20%. Chissà se c'è qualche novità nell'ambito dell'aumento di capitale che è in corso. Popolare di Milano più 4,61, Intesa più 4,45, Mediobanca più 4, Banco Popolare più 3,65%, Fiat Industrial più 3,49, STM più 3,31. Questi titoli con i rialzi più forti, mentre quelli che hanno dei cali un po' più pronunciati sono quelli che potrebbero essere oggetto delle attenzioni del decreto sulle liberalizzazioni che il governo vara domani. Fra questi c'è Snam Rete Gas, che perde il 2,36% perché potrebbe essere appunto annunciato lo scorporo da Eni e dunque il titolo flette. Oggi con Enel meno 1,90, Enel Green Power meno 1,41, Terna meno 1, in calo dello 0,8%, circa anche Campari, Atlantia, la ex Autostrade e Diasorin. Euro su dollaro a 1,29, oggi ci sono state, come avete sentito nel giornale radio. Due aste, quella spagnola e quella francese, sono andate bene, anche se la Francia, non abbiamo ben capito come interpretare questa notizia, ha collocato 8 miliardi di titoli. La domanda per tutte le scadenze è stata molto forte, quasi 20 miliardi, 19 miliardi, però sembra che la Francia volesse collocare qualcosa come 9 miliardi e mezzo di titoli appunto sulle varie scadenze, invece ne ha collocati 8, per cui non riusciamo a capire se sia una buona o una cattiva notizia. Giudicare della reazione del mercato azionario, prendiamola come una buona notizia. Comunque già la Francia ne ha avuta una cattiva venerdì scorso, visto che è stata declassata la Standard & Poor's e il paese appunto ha perso la tripla A. Direi che possiamo lasciare la borsa, andiamo invece al tema di oggi e parliamo di investimento nell'immobiliare turistico. Cucuzzolo della montagna con la neve alta così, per la valle noi scenderemo con i piedi un paio di sci sci dal cucuzzolo della montagna, un cielo tinto col blu, con in testa un passo montagna, scenderemo sempre più in giù. C'è poco da scendere in questi giorni perché non è che abbia nevicato moltissimo, Paola, e quindi insomma per la verità gli operatori del settore non sono tanto soddisfatti, anche se le temperature si sono di nuovo inasprite molto negli ultimi giorni, forse ancora non sono in grado di recuperare il business perso magari sotto Natale, si aspettavano qualcosa di più. Siamo partiti ovviamente in maniera un po' divertente per animare la nostra trasmissione, per parlare dell'investimento nel mattone turistico nel nostro paese, che rappresenta, Paola, il 5% del mercato immobiliare complessivo. Ho trovato questa cifra sulla tua storia di copertina. Sì, esatto, è diciamo un segmento che rappresenta, con 32.000 compravendite sulle quasi 600.000 totali delle compravendite realizzate in Italia, una nicchia sostanzialmente di mercato che ha tenuto bene nel corso degli ultimi due anni. Si prevede che anche nel 2012, con delle correzioni rispetto all'anno passato, possa tenere. Diciamo che la definizione migliore della tendenza, la definizione che mi è piaciuta, è stata quella che mi ha dato Mario Breglia nell'intervista che poi ha dato spunto alla copertina, che è stata quella di un trend in linea con quanto inaugurato da Mario Monti, quindi una sobrietà chic nella ricerca delle nuove mete dove acquistare una seconda abitazione, sia che siano di montagna che di mare. Dottor Breglia, la devo coinvolgere immediatamente, ci traduca in termini pratici questo atteggiamento sobrio ma pur sempre chic nelle scelte delle famiglie italiane che cercano la seconda casa appunto nelle località turistiche. Che cosa vuol dire chic, tipo un Forte dei Marmi però in periferia, non proprio affacciato sul mare? Non so quanta periferia poi possa avere Forte dei Marmi, perché... Allora pensiamo due sorelle casualmente? Due sorelle, una sorella molto molto bella, molto affascinante. Sa perché ci sono le due sorelle ad Ancona, che è la mia zona del Conero, dico ma perché adesso parla di quella zona? Due sorelle, un una famiglia, ok. Siamo poi in uno stile un pochino più leggero. E quindi due sorelle, una molto bella, affascinante, che tutti vogliono. Poi ce n'è un'altra, un po' meno affascinante, un po' meno bella, però quella meno bella si sposa prima, perché si sposa più facilmente di solito, perché è più accessibile. Ecco, nel mercato della seconda casa sta accadendo una situazione del genere. Guarda, veramente questo è il paragone più originale che io abbia mai sentito, però prendiamone atto, perché insomma prendiamo coscienza che il mercato immobiliare funziona così. Diciamo che trovare una casa a Capri è molto complicato, per una località importante. I prezzi sono molto alti, l'offerta è ridotta. Se si va da una Capri, che ha un contesto ambientale eccezionale, molto valido, però una località diciamo meno di prima schiera, le quotazioni sono più basse e c'è più offerta. La stessa cosa accade ad esempio tra Courmayeur, Val d'Ayas, Gressoney, per parlare della montagna. Trovare una casa a Portofino è difficilissimo, cioè una casa in vendita all'anno di media. Se si va invece a Santa Margherita Ligure si possono trovare abitazioni di ottimo livello a prezzo un po' più basso. Ecco, in questa logica va il nostro esempio. Spesso tra le varie località vicine a quelle prestigiose, diciamo vicine alla sorella bella, in questo momento si scelgono località diciamo più riservate, più diciamo più glamour, meno diciamo più chic e meno ridondanti, ma perché oggi i flussi di acquisto sono questi. Sì, diciamo. Non vorrei che fosse anche per motivazioni legate a spesometro e redditometro, dottor Breglia, si sceglie di stare un pochino più defilati perché adesso tutte le abitudini di consumo un po' eccessive vengono controllate un po' di più, non lo so, è una mia congettura o può anche essere? No, non credo che sia in questo modo, è perché diciamo, l'aspetto fondamentale è che l'acquisto di una seconda casa oggi è l'acquisto di qualità della vita. Per qualcuno è anche immagine, simbolo, però per la maggior parte delle persone è qualità della vita. Per cui si preferisce comprare una casa con verde, una casa tranquilla perché sta in una città, comprare un immobile, un modello di vita che è diverso rispetto a quello che in cui si vive 5 giorni la settimana. Certo, dopo aver respirato l'impossibile per tutto l'anno a Milano, Paola Dezza, stavo coinvolgendo Paola perché magari si preferisce portare i bambini in un certo periodo dell'anno a respirare una qualità. Esatto. No, tra l'altro volevo coinvolgere anche Bruno Vettore per dargli l'opportunità di fare un flash anche a lui prima della nostra prima pausa per capire insomma se si ritrova nelle considerazioni fatte fino a questo momento, insomma come sta viaggiando questo mercato. Secondo le vostre osservazioni, le compravendite sono un po' più tranquille rispetto al passato perché chiaramente con le banche che non erogano mutui in questo momento e con i prezzi che tutto sommato sono ancora abbastanza alti ovunque, poi faremo anche un giro geografico per capire dove ci sono le occasioni più interessanti, insomma qual è il vostro punto di vista rispetto a questo settore? Ma guardi, io penso questo, che unitamente alle considerazioni del dottor Breglia, che condivido, noi abbiamo potuto notare dal nostro osservatorio, cioè dalle nostre agenzie sparse sul territorio, che fondamentalmente il target è duplice. Cioè c'è un target di riferimento che è il target di lusso che si orienta nelle classiche località, Courmayeur, Cortina, Santa Margherita, Forte dei Marmi e che evidentemente prevede un investimento molto alto, generalmente superiore ai 6, 7, 8 mila euro al metro quadro. Ecco, però è apparso in quest'ultimo periodo, insomma quest'anno, anche un target diciamo che noi definiamo medio, cioè rappresentato dal piccolo investitore privato che tendenzialmente tende ad acquistare tagli medio piccoli come investimento alla ricerca di un bene rifugio mattone per proteggere i risparmi, ecco, stiamo parlando di il taglio che diciamo è molto liquido che poi può rivendere facilmente. Esatto, ecco. Esattamente, è un taglio che prevede un investimento complessivo fra i 100 e i 200 mila euro che ha poi un tasso di rivendibilità molto interessante. Certo. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. E come l'anno scorso. Sì, vabbè, Roberto si mette anche a cantare questa mattina. Sì, mi rendo conto che adesso questa canzone, per questa parte dell'anno e per questa giornata un po' lugubre su Milano, come quelle degli ultimi giorni, forse non è proprio a tema, e però insomma abbiamo voluto ricordare anche con la canzone che stiamo parlando di investimento nel settore del mattone turistico in Italia. Peraltro, parafrasando un po' la canzone, Paola Dezza, stessa spiaggia, stesso mare, chi vuole cercare la seconda casa nella località di vacanza mediamente cerca la località dove ha passato sempre le vacanze, o magari uno che è andato sempre in Toscana cerca anche qualcosa in Abruzzo piuttosto che in Puglia, si guarda intorno o è molto fidelizzato a questo? Ma diciamo che la seconda casa per sfruttarla al meglio si cerca sempre non troppo lontana, quindi magari nel raggio di 1, 2, massimo 3 ore dalla casa principale. Insomma, il milanese va in Liguria appunto e poco altro. Sì, sostanzialmente ecco. Sì, però è vero che per esempio per quest'anno gli acquisti degli italiani di seconda casa all'estero hanno per la prima volta superato gli acquisti in Italia, quindi parliamo di 35.000 acquisti contro i 32.000 in Italia, quindi l'italiano inizia anche a spostarsi magari dove ci sono voli low cost che permettono di raggiungere facilmente capitali europee, o si è spostato molto anche negli acquisti in Engadina, quindi sceglie anche mete che non sono proprio sotto casa, certo. Sotto la prima casa diciamo. Allora, dacci subito qualche dettaglio rispetto ai prezzi, qual è la tendenza tra le varie macro aree d'Italia che avete analizzato per la storia di copertina di Casa 24 Plus, e poi vediamo vediamo se questa, se l'offerta trova anche riscontro nella domanda dei nostri ascoltatori. Allora, la tendenza dei prezzi è alla stabilità, è una leggera discesa sostanzialmente. Il trend per il 2012, parliamo chiaramente di una nicchia nella quale si acquista generalmente senza mutuo, quindi con liquidità che si ha in cassa. Scenderanno leggermente i target, però verranno rivisti i budget a disposizione. Per questo noi abbiamo voluto dare proprio delle indicazioni, delle località dove si possono fare degli affari, dove si possono trovare delle occasioni, località magari meno in luce di altre, però sempre paesaggisticamente belle, con servizi eccetera. La principale tabella invece riguarda proprio le 50 località dove i prezzi hanno diciamo tenuto meglio e sono scesi invece di più, e qui ritroviamo molte località di pregio nelle quali il valore viene mantenuto nel tempo. Mentre ci sono appunto località che dal 2008 hanno perso anche il 10% a livello di quotazioni, quindi guardando per esempio ad Andalo, alla Prica, Pietraligure, Positano, si possono anche trovare magari dei prezzi più interessanti. Noi abbiamo scelto quattro focus in questa copertina: uno mare dedicato alla Riviera Romagnola, montagna dedicato alla Valle d'Aosta, Perugia, la zona del Trasimeno come zona emergente, e poi il Lago di Como, ma non la parte che subisce l'effetto Clooney, quindi la zona di Cernobbio fino a Menaggio, ma l'altra sponda, che è ugualmente bella, meno magari raggiungibile, meno comoda. L'altro ramo del Lago di Como, praticamente. L'altro ramo, quello che va verso Lecco, infatti. Allora, sentiamo adesso i nostri ascoltatori, insomma, che curiosità hanno rispetto al tema di questa mattina, e poi metteremo a confronto le curiosità che ci esporranno all'800 24 00 24 con le risposte di Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, e Bruno Vettore, amministratore delegato di Gabetti. Sentiamo Andrea dalla provincia di Genova, che contestava un po' le cifre che abbiamo dato prima rispetto alle quotazioni al metro quadro di Santa Margherita Ligure. Andrea, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ah, Andrea al femminile, buongiorno. Dunque, io sì, da Santa Margherita Ligure. No, volevo dire che qui 8.000-7.000 euro al metro quadro si trova, però dentro a Santa Margherita, noi chiamiamo Santa Margherita, è divisa in diverse, c'è la Ghiaia che è dalla parte verso Rapallo, poi c'è Corte che è la parte verso Portofino, poi c'è l'entroterra diciamo che è San Siro, e lì si trovano anche delle case a quei prezzi da 8-7 mila euro al metro quadro, però tanto sono tutte da rifare e in stati proprio pietosi. Qui nella zona Porto varia da 12 a 14 mila metri al metro quadro. Certo, Andrea, la ringrazio, ma sono super giù le cifre indicative, poi sono medie e chiaramente ci possono essere anche delle derive assolutamente sconsiderate, anche insomma magari un bilocale da 40 metri quadri a pezzi con prezzi assolutamente inaccessibili, però magari uno vuole assolutamente quel posto, vuole passare le sue vacanze lì, vuole farsi il piede a terra a Santa Margherita Ligure, accetta di pagare questa cifra e rimette a nuovo l'immobile. Però insomma mi pare, Paola, che tu abbia dato effettivamente questo range di prezzo per Santa Margherita. Sì, nella tabella appunto che Scenari Immobiliari ha elaborato con noi, i prezzi vanno da 8 a 13.500 euro al metro quadro. Poi è chiaro che quando si parla di un oggetto magari particolare, il prezzo può salire ancora. Se parliamo per esempio dell'area di Cernobbio, dove i prezzi vanno tra i 1.000, 5.000, 6.000 euro al metro quadro, ma parliamo di una villa sul lago con darsena privata, è chiaro che è un oggetto che ha prezzi nettamente superiori. Certo. Non si parla neanche più poi di metro quadro in questi casi. Volevo sentire le agenzie un attimo, la riflessione di Bruno Vettore. Chi sta mettendo in vendita adesso questi immobili, dottor Vettore? Chi è un po' in crisi di liquidità, oppure insomma magari chi vende per comprare da un'altra parte? In questo senso, che tipo di dinamicità sta mostrando il mercato dal punto di vista dell'offerta? Ma guardi, il tema della seconda casa è sempre un tema che riguarda i costi di gestione poi dell'immobile, e il fatto che spesso, non usandolo, ha una sorta di invecchiamento precoce, ecco, quindi spesso chi compra la seconda casa o chi ha la seconda casa di famiglia, si può trattare anche di una villa, chiaramente si trova col passare degli anni dover sostenere, certo, non se la gode al punto da tale appunto da giustificare la manutenzione che questi mobili hanno bisogno. Certamente, quindi questo crea una in alcune zone una forte offerta derivante da soprattutto da questa cosa. Alludo per esempio alle ville con giardino, ecco, alludo a insomma i mobili che hanno dei costi di manutenzione molto molto alti. Breglia, mi dà anche la sua considerazione su questo? Sì, il problema della seconda casa è che sono pochi che vendono e soprattutto sono pochi che vendono le case che la gente vorrebbe comprare. La gente vorrebbe comprare una casa al lago che si affacci sul lago, al mare che guardi il mare, in montagna che sia vicino alle piste o che abbia una bella vista e così via. Spendendo poco, la casa a posto. Spendendo, esatto, avendo una casa abbastanza in ordine. Il problema è che questo tipo di abitazioni sono rarissimamente messe in vendita, oppure la vendita gira nel circuito familiare, lo zio vende a un nipote o vendono agli amici e quindi poco va sul mercato, e quello che va sul mercato è a prezzi altissimi. Questo spiega anche perché tanti italiani ormai da anni vanno a comprare le case all'estero. Se in Francia posso comprare seconde case in montagna a prezzi che sono la metà dell'Italia, in Grecia, nelle isole minori, ecco, non a Santorini o Mykonos, case sull'acqua a 1.500-2.000 euro al metro quadrato e così via. Per non parlare delle opportunità che si saranno aperte in Spagna, dottor Breglia, con il crollo del mercato immobiliare, oppure anche lì insomma le località più gettonate hanno sempre prezzi altissimi. Le Baleari hanno prezzi molto alti, certo, sul livello italiano. Si vendono a prezzo basso le case che nessuno vuole, cioè quelle che sono magari a un chilometro dal mare, oggetto di intensificazione, di edificazione intensiva negli ultimi anni. Certo. Si compra molto in America, Miami è una località classica per gli acquisti di seconde case. Ci sono collegamenti aerei tutti i giorni, si possono avere low cost, eccetera. Quindi anche l'acquirente di seconde case è globale. Il milanese va in altre parti, certo, compra Malindi a prezzi molto bassi, ecco. Beh, allora rimaniamo in Italia. Paola, volevi fare una riflessione sul mercato americano? No, volevo dire che l'acquisto della seconda casa è un acquisto in genere di desiderio di una casa da utilizzare, però non va persa di vista l'idea dell'investimento. Chiaramente se io acquisto in una zona dove hanno costruito tantissimo, il mio valore negli anni non verrà mantenuto e difficilmente si rivaluterà la casa. Questo vale magari nelle zone delle valli bergamasche piuttosto che sul lago di Garda, quindi zone in Italia dove si è costruito tantissimo e poi si fa fatica a vendere perché spesso sono oggetti che non sono poi così desiderabili. Certo, e no, hai fatto bene a fare questa precisazione perché chiaramente anche in questo investimento ha un valore se la seconda casa che acquisto l'acquisto perché io ci voglio passare il mio fine settimana, ci voglio passare tutta l'estate, piuttosto che invece faccio un acquisto per puro investimento e la voglio mettere a reddito, darla in affitto appunto tutto l'anno o durante il periodo della vacanza, per cui anche qui chiaramente il punto di partenza e il presupposto è diverso. Tornando alla questione della Costa Concordia, peraltro, Paolo, l'Argentario, che tipo di, adesso io faccio questo parallelo, però mi perdoneranno gli ascoltatori, ma solamente un po' per capire che prezzi ci sono in quest'area? L'Argentario ha dei prezzi elevati, ha tenuto bene sia l'Argentario. Porto Santo Stefano, per esempio, è la prima assolutamente a livello di tenuta dei prezzi nell'ultimo anno. 7.000-10.300 range minima massima. Perché è un'area che comunque è stata tutelata, paesaggisticamente molto bella, non si è costruito in maniera sconsiderata, quindi diciamo che è un'area protetta, possiamo dire, da questo punto di vista, quindi mantiene il suo valore, le case in offerta non sono tantissime, quindi diciamo un'area che tiene bene. Certo. Allora, Stefano dalla provincia di Chieti, buongiorno, poi tra l'altro avrò anche Rocco da Pescara. L'Abruzzo effettivamente sembra che dalle tabelle di Paola Dezza si sia dimenticata di dare delle indicazioni, così come le Marche, poi dopo su questo facciamo un ragionamento a parte, a microfoni, le Marche ci sono, ma a parte gli scherzi, volevo sentire Stefano dalla provincia di Chieti, buongiorno. Buongiorno a lei. Premetto che sono proprietario di un piccolo appartamento in una zona balneare qui in provincia di Chieti, da circa 10 anni. Dal momento dell'acquisto ho sempre preferito affittarlo tutto l'anno e con il ricavato, diciamo, poi pagarmi le mie vacanze in altre località balneari. Certo. La domanda che faccio, questo l'ho fatto ovviamente per sgravarmi un po' dei costi di gestione dell'appartamento, diciamo di abbattere più o meno tutte le spese che c'erano. La domanda che faccio è se c'erano state già delle valutazioni sulla effettiva convenienza di una, diciamo, di un'operazione del genere, oppure se viceversa è più conveniente, diciamo, averlo e poi gestirlo, diciamo, usufruirne direttamente. Beh, sa Stefano, queste sono anche considerazioni molto molto personali, molto spesso, però mi pare che l'approccio di Stefano sia molto più tendente all'investimento. Non certo. So, Vettore, lei che cosa ne pensa? Ma come giustamente rilevava lei, dipende dalle necessità personali, però io credo che sia importante sia valutare la località. Ecco, è chiaro che se parallelamente a questo equilibrio, insomma, fra costi e ricavi, fra incasso di un affitto e passare le vacanze da un'altra parte, la variabile è l'eventuale rivalutazione che l'immobile può avere negli anni, cioè il guadagno sarà eventualmente costituito da quello. Bisogna vedere la località e la conseguente rivendibilità nel tempo dell'immobile. Ai suoi responsabili delle vostre filiali, dottor Vettore, piace l'Abruzzo? Ma guardi, noi siamo presenti in tutta Italia e io evidentemente per statuto devo dire che tutte le zone sono belle ed interessanti. No, per capire se magari da queste aree che, ecco, effettivamente magari a volte non guadagnano la storia di copertina di Casa 24 Plus, così come magari di altri osservatori immobiliari, se sono un po' più defilate nell'immaginario appunto dell'investitore ma in qualche maniera però costituiscono comunque un mercato interessante per voi operatori. Sì, sì, questo sì, perché hanno evidentemente probabilmente delle nicchie di interesse. Ecco. Dipende molto dalle località. Fare un discorso regionale diventa molto difficile, perché in ogni regione, in ogni area, poi ci sono delle località che hanno un interesse particolare. Ecco. Certo. Andare in montagna con l'ultima parte appunto di Salvadanaio per cercare di capire che prezzi ci sono per chi intende investire. Sul Cucuzzolo della Montagna, che era la canzone di partenza della nostra trasmissione, insomma, che tipo di prezzi si trovano, e prendo a spunto un'email di un ascoltatore, Paola Dezza, te lo dico a te, perché a te chiedo appunto indicazioni in questo senso. L'ascoltatore, che si chiama Alessandro, ci scrive da Novara, sta valutando un acquisto alla Twill, un trilocale, mi sembra un bel complesso nel verde, quindi anche un acquisto importante, perché non si compra un monolocale, un piede a terra, ma lui dice il prezzo mi sembra il 20% più alto rispetto, non so, forse alle sue valutazioni personali che ha fatto. Qual è il prezzo corretto al metro quadro per questa località? Ma la Twill è una delle mete che ha tenuto meno bene rispetto alle altre. Si guarda la Val d'Aosta, sono scesi leggermente i prezzi, diciamo che per il nuovo siamo sui 6.500-7.000 euro al metro quadro, si può acquistare a 4.500-5.000 l'usato. La Twill è come Cogne, sono mete più defilate ma molto apprezzate paesaggisticamente, sono quelle, tra quelle zone della Valle d'Aosta che vale la pena scoprire, quindi lasciando perdere magari Courmayeur, che ormai al metro quadro ha dei prezzi esorbitanti. Sì, ci sono tutta una serie di altre mete che sono Cogne e i paesini intorno a Cogne, la Twill, la Val d'Ayas, piuttosto che la Valle del Gran San Bernardo, che è decisamente sottovalutata, magari meno bella ma comunque interessante, perché sono anche mete comode per i milanesi, perché ci si arriva magari in 2 ore, però non c'è traffico, mentre magari andare nelle valli bergamasche la strada è più breve, poi si trova un traffico incredibile, ci si mette 2 ore e mezzo Infatti, ad arrivare alla meta. Tra l'altro, io ho detto prima prezzi impraticabili, sono impraticabili per noi comuni mortali, ma se questi prezzi ci sono è perché evidentemente un mercato c'è, e c'è chi chiaramente ha dei redditi piuttosto interessanti. È un po' come la zona di Monte Napoleone a Milano, che avrà sempre quotazioni esorbitanti, il centro, esatto, appunto il quadrilatero della moda. Perché? Perché c'è un mercato per questo ambito. Ritornerei a Rocco dalla provincia di Pescara. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno Rocco, dove sta? Abbiamo sentito un fragore, un boato. Sono in autostrada, sentivo la vostra trasmissione. Si fermi allora, Abruzzo, per carità, ecco, all'auricolare, sì. Sono fermo in viva voce. Ottimo. Niente, io appunto sono in Abruzzo, vivo in Abruzzo ultimamente, vivevo a Milano e ho comperato casa qui in Abruzzo, una casa nuova in una posizione strategicamente eccezionale secondo me, nel senso che con 2 ore si va a Roma, con 2 ore si va a Napoli e nella splendida costa dei Trabocchi che è a sud di Pescara, uh-huh. Dove si comprano residenze nuove anche a ridosso del mare intorno o sotto i 2000 euro a metro quadro. L'Abruzzo offre tra l'altro la possibilità di avere sì una vacanza marina ma anche una vacanza montana, ci sono impianti di risalita, impianti di sci a Rocca Rasoli, di Sondoli a 40 mm-hmm. minuti di macchina dal mare, insomma, certo, ma lei quindi insomma Rocco, no, stavo pensando insomma con la cifra che ha speso a Milano ci avrebbe comprato uno scantinato, ecco. Appunto, con la cifra che ho speso a Milano ci avrei comprato un massimo un monolocale, insomma, soprattutto, oppure un bilocale in zona periferica. Ho comprato invece con 170.000 euro, proprio per lo dico proprio. Ma guarda, sono soldi suoi, tanto Rocco. Ho comprato una casa di 120 metri quadri con un box, vista mare, mi godo i pescherecci che pescano la notte e quando mi giro verso il lato opposto vedo la Maiella innevata in questo momento che è stupenda. Tutto contento Rocco, però questa no, mi scusi una cosa, però ma questa è la sua la casa di vacanza o la casa, la prima casa? Quando l'ho comprata doveva essere la casa di vacanza, poi le mie prospettive di vita sono cambiate, sono 70 anni, sono andato anticipatamente in pensione, ecco qua. E quindi adesso sta diventando la casa di residenza. Benissimo Rocco, la ringrazio. Allora Breglia, vuole aggiungere qualcosa rispetto alle riflessioni fatte dal nostro ascoltatore? Tra l'altro 170.000 euro per 120 metri quadri in questa località, chiaramente Rocco con l'entusiasmo con cui ha raccontato il suo acquisto ci ha messo anche un po' del suo nel prezzo, forse poteva spuntare anche qualcosa di meglio? Adesso lo inzighiamo un attimo e gli faccio anche sorgere dei dubbi. Breglia. Beh, magari ha avuto in omaggio il box, ecco, insomma, queste sono le cose che si fanno sul mercato. No, c'è due aspetti volevo sottolineare, sì, che riguardano l'Adriatico, tutti e due. Il primo, che lungo la costa dell'Adriatico, praticamente da Grado fino a Lecce, fino a Taranto, fino alla punta dello Stivale, si costruisce molto. Perché mentre il Tirreno ha subito le montagne, comunque aree molto tutelate, lungo l'Adriatico c'è molta possibilità di edificare, ci sono c'è la pianura, poi ci sono aree molto estese anche nello stesso Abruzzo, nelle Marche, e quindi questo consente di poter costruire molto e a prezzi bassi, quindi cioè, questo è un costo industriale, sì, sostanzialmente. Posso raccontare l'esperienza di Porto Recanati, che è la località, sì, hanno costruito molto ma non è che abbiano venduto tantissimo, adesso lì il mercato da quello che mi risulta non è che sia particolarmente vivace in termini positivi, vabbè, però abbiamo anche, come dire, ancora il residuo della crisi che ci trascineremo ancora un po'. Il secondo elemento, che tra l'altro sta anche nella testimonianza del nostro ascoltatore, è nel fatto che nell'Adriatico, proprio per questa vicinanza tra seconde case e le località più importanti, c'è spesso un'osmosi tra prima casa e seconda casa. Cioè gli immobili che sono stati costruiti come seconde case, spesso lontano dalla città, poi sono stati inglobati nello sviluppo della città. E quindi zone che erano quasi esclusivamente di seconde case, penso Senigallia piuttosto che Jesolo, sono diventate aree in cui, o Rimini, ecco è il caso più eclatante, Rimini era la classica località di seconde case, oggi è una città con un ottimo mercato immobiliare, e che vive tutto l'anno perché ha la fiera, ha l'attività, ha moltissimi bolognesi che si sono installati in questa città. Ci sono dei mercati che vivono una vita propria, completamente indipendente dal mercato. Ho un minuto di tempo, Matteo ci scrive, sogno una casa in Val Gardena, ma che prezzi? Andiamo un attimo al sud, Paola, perché abbiamo solamente citato la Puglia, ma nessun'altra località, 40 secondi di tempo per raccontarci un po' qualche tendenza interessante nel sud Italia. Al sud, la zona che da qualche anno è, diciamo, sotto i riflettori, che anche nel 2012 terrà, è il Salento. È una zona che è stata riscoperta soprattutto anche dagli inglesi, dagli stranieri, quindi è una zona che dovrebbe tenere. Invece per quanto riguarda la costiera, Mario Breglia prima diceva una Capri, perché rispetto a Capri è più defilata, è anche molto bella, una zona più tranquilla dove i prezzi possono essere ancora contenuti. Poi ci sono anche tante zone molto belle ma di difficile diciamo difficile raggiungimento, accessibilità. Perché se penso per esempio alle Eolie, che sono molto belle, ma il viaggio è una specie di odissea, allora è chiaro che lì è difficile poi arrivare ad acquistare la seconda casa. Ci sono delle scelte precise casa. Da fare. Oggi tutte queste riflessioni le trovate su Casa 24 Plus. Grazie a Paola Dezza, Mario Breghi e Bruno Vettore per essere stati con noi. Salva Danaio torna domani. A tutti buona giornata.